dalla sua concezione non normativa del linguaggio pubblico possiamo trarre delle questioni, secondo me, provocazioni interessanti nel tema dei beni comuni. Per esempio, nessuno dei relatori, ovviamente penso per problemi, per questioni di tempo, ha fatto cenno a una cosa che credo sia centrale, cioè una sorta di disciplina o responsabilità dei beni comuni, perché credono che a livello empirico, politico, cioè uno dei grossi argomenti a favore dell'immaginario brunettiano, cioè delle privatizzazioni senza limite a favore dell'efficienza privata, sia anche il fatto che, nonostante l'antropologia appunto che sta alla base della tragedia dei beni comuni, cioè homo homini lupus, ognuno mangia a volontà a discapito degli altri, sia falsa, tuttavia nella realtà empirica è vero che c'è stata una gestione dissennata dei beni comuni per via pubblica, che è una fonte inesauribile di argomenti per appunto, come ho detto prima, l'immaginario brunettiano e tutte le storie della meritocrazia così. Allora vi volevo chiedere proprio voi, cioè, come la pensate una possibile disciplina dei beni comuni, una sorta di responsabilità dei beni comuni che non sia basata su una trascendenza, cioè nel senso su un ordine trascendente che punisce appunto chi fa un uso privatistico dei beni comuni e via discorrendo. Non so se sono stato chiaro. L'altra questione che dicevi su Habermas, io non vedo una grande, cioè non mi sfugge un po' l'applicabilità dei criteri di Habermas al problema dei beni pubblici, non mi pare che neanche se ne sia molto occupato per quanto mia conoscenza, più che altro ha studiato le varie pratiche di dialogo, di discussione, diciamo, di rispetto, di bon ton parlamentare che esistono. Ecco, io ritengo che non sia una soluzione valida per una definizione della soggettività, della relazionalità, eccetera. È semplicemente una ripresa di tematiche di bon ton illuministico e parlamentare sull'andamento di discussione abbastanza vuoto di contenuto politico, in questo senso anche inferiore, diciamo, alle considerazioni più criticabili, ma un po' più dense, diciamo, di Rawls, no? Che in qualche modo ha avuto invece un'influenza sulla scienza politica moderna maggiore. Ma sulla questione dei beni comuni io non mi sfugge, forse no, ma nel senso, cioè, una volta che la comunità rientra in possesso dei beni comuni, okay, come li gestisce? Cioè, almeno lascia un modello questa domanda la vorrei girarla no, invece no, perché come li gestisce? No, perché a me è una domanda solo giuridica, nel senso, una volta che i beni comuni tornano alla comunità, alla moltitudine, come la volete chiamare, come si gestiscono? Cioè, nel senso, in maniera dialogica, in maniera... Sì, ma come? Esistono delle norme? Non ci sono delle norme? Esiste una responsabilità dei beni comuni? Esiste una disciplina dei beni comuni? È una disciplina che viene fuori dal dialogo stesso? O c'è bisogno comunque sia di una garanzia istituzionale? Non penso sia una domanda solo giuridica. Ovviamente no, c'è una sponda istituzionale, cioè la gestione dei beni comuni ovviamente rientra nelle competenze degli enti locali, questo non c'è dubbio. Io vorrei separare, diciamo, il piano di un discorso generale sullo Stato e l'universale da quello più pratico, intermedio, di strappare a Ilde la gestione dell'acqua comune e darla a dei consorzi, delle regioni e istituzioni che certamente fanno parte del concetto vigente di pubblico, ma non mi spaventa che ci siano delle deviazioni su queste cose, quindi ovviamente verranno fatte in base a delle normative, a criteri di efficienza economica, rapporto tra tariffe e altro, insomma non credo che implichi un discorso sulla trasparenza dialogica, più sulla trasparenza amministrativa, per questo in qualche modo alcune esperienze, gestione boliviana, gestione di Aprilia, abbiamo degli esempi, abbiamo fatto degli esempi, quelli sono gli esempi di Rito, questione di Parigi, ha detto che c'erano dei problemi di coinvolgimento di altri soggetti diversi, mi pare, dalle vie di Parigi, no? Ecco, quindi abbiamo già degli elementi che si può raccontare, però forse questo lo può dire meglio da te. Guarda, secondo me sono due discorsi in qualche modo separati. Uno è l'argomento molto potente che tu individui, che tutte le volte che uno dice ritorniamo a un'idea di pubblico, deve fare i conti con gli effetti di un processo di diffamazione del pubblico e di, come dire, di coinvolgimento del pubblico nel disastro e nel disequilibrio della gestione economica dello Stato che è avvenuto in questi ultimi anni, negli ultimi 20 anni. Sicuramente è stato lo sporco e ferito di tutti dire il pubblico, lo Stato, no? Perché la massima reganiana, no? Government is part of the problem, not part of the solution. Quindi c'è, cioè, l'idea fondamentale, siccome il governo gestisce male, allora deve gestire il privato. La declinazione dei beni comuni passa innanzitutto per una chiarissima presa di distanza rispetto all'idea che il pubblico coincida con le istituzioni del politico statale, modello statale, che può essere anche la regione o quant'altro. In altre parole, io penso che si debba passare da una visione del rapporto tra organizzazione e l'oggetto dell'organizzazione, che dimostri come, secondo me in maniera molto evidente, l'idea della sovranità del pubblico e l'idea della sovranità del privato come soggetti che dominano su un oggetto, essendo l'oggetto la natura esterna, siano esattamente la stessa matrice. Cioè il pubblico e il privato sono esattamente fondati sulla stessa idea di sovranità, che è una sovranità che si declina attraverso una visione di tipo gerarchico e di concentrazione del potere. Cioè, così come il privato è sovrano rispetto alla sua cosa, no? La pubblicistica, il diritto civile, definizione di proprietà, no? La proprietà uguale sovranità, e sovranità uguale proprietà. Lo Stato è sovrano proprietario del suo territorio. Il privato è sovrano e proprietario della sua cosa, del suo bene. Queste sono matrici identiche. Sono le matrici della modernità che sono due matrici assolutamente identiche e speculari. Dopodiché, e sono entrambe basate su che cosa? Su un'idea di concentrazione del potere, di struttura gerarchica dell'utilizzo del potere stesso. Cioè tanto il proprietario, l'individuo che gestisce il potere direttamente sulla cosa, quanto la corporation è una struttura strettamente gerarchica che ha in capo qualcuno che detiene il potere e che esercita nei confronti dell'oggetto del suo potere. Stessa cosa, l'istituzione della statualità sono delle istituzioni sovrane fondate sull'idea di gerarchia, no? Attraverso il procedimento elettorale noi eleggiamo il potere esecutivo è fondamentalmente proprietario dei suoi beni. Ok? Quindi sono la stessa cosa. Il bene comune invece declina un rivolgimento conguanto di questa idea. Cioè il bene comune è il luogo della comunità e il luogo del non gerarchico. Ed è il ruolo della gestione diretta di tipo ecologico compatibile rispetto a quello che è un rapporto di potere diffuso. Cioè, quindi c'è una distinzione tra la concentrazione del potere e la diffusione del potere. La concentrazione del potere si ha sia nel modello proprietario privato che nel modello del sovrano pubblico. Il potere è concentrato. Il bene comune va gestito con modelli a potere diffuso. Questa è la cosa più importante. Allora, come declinare i modelli a potere diffuso? Cioè, quali sono le istituzioni giuridiche tramite le quali noi possiamo garantire la diffusione del potere? Questa, secondo me, è l'autentica pratica democratica. Cioè, la pratica democratica è il demos che direttamente, in qualche misura, gestisce ciò che è suo, non attraverso l'istituto della rappresentanza politica, ma attraverso la gestione, per esempio, di movimento, no? Allora, questa cosa qui, per esempio, andiamo un po' più sul concreto. Una volta detto, liberato il campo di questa sorta di gioco a somma zero, no? Per cui se non è privato è statale, se non è statale è privato, e una volta che si è detto chiaro qui stiamo cercando di lavorare una cosa profondamente diversa, da che però dobbiamo partire. Allora probabilmente si può partire dal bisogno, si parte dai diritti fondamentali, si parte dall'esercizio situazione drammatica, pubblico uguale, struttura gerarchica, istituzionale, statale della rappresentanza politica, che non è diversa rispetto al privato, e a quel punto, una volta sbarrato questo campo, si può finalmente cominciare a ragionare del fatto che fare le cose insieme può essere una cosa anche che motiva, come dire, dei comportamenti che sono antropologicamente diversi rispetto al comportamento volto alla concentrazione del potere, che proprio sia della proprietà privata che della statualità. Comunque parti che se ne trovano, voglio dire, il modello francese, per esempio, io ho parlato a lungo con Emmanuel Strapp, la ministra, che hanno costituito questa società che si chiama, un'associazione che si chiama Eau de Paris, alla quale partecipano attraverso delle forme di selezione, un po' come dei board, i vari residenti, che hanno una loro rappresentanza, sono rappresentate diverse forme, come dire, della comunità stessa, che direttamente si gestisce anche in quel particolare ambito. Ma l'ambito deve essere legato all'attività, perché il problema vero qual è? Che nel momento in cui tu strutturi nel quadro della concentrazione del potere, il potere tende necessariamente a cercare di allargarsi il più possibile ad espandersi. E questo è vero del privato ed è vero del pubblico. Grazie. Spazio di interazione sollecitate dalle relazioni, dall'argomento, e porle sotto come forma di domanda o riflessione. E, diciamo, il comune innanzitutto io vedo come un punto aporetico, problematico, che deve essere indagato, percorso fino in fondo. Ad esempio, alcuni punti. Il primo, che riprende quello che ha appena detto Ugo Mattei, è sul il fatto che parlare di beni comuni comunque ti fa riferimento ancora all'avere a disposizione i beni comuni, però va collegato anche al discorso del fare in comune, del decidere in comune, e quindi l'ambito, diciamo, della politica. E secondo me, visto che ci sono delle aporie profonde per quanto riguarda il fare in comune e il decidere in comune, di rimando ce ne sono anche per quanto riguarda il discorso dei beni comuni. Da un punto di vista storico, il riferimento è filosofico. Rousseau, che parlava della volontà collettiva nel contratto sociale, o anche Marx, che parlava di democrazia diretta, però dai secoli che ci separano da questi autori ci hanno dimostrato che questi sono rivelati esperimenti mentali o qualcosa di impraticabile. Quindi la domanda è un po'... quello che è uscito fuori è che, come lei ha detto, le scelte politiche vengono delegate a dei rappresentanti del potere, l'istituto della rappresentanza, però si crea un divario incolmabile fra le scelte dei politici, che sono estremamente distanti dalla pratica e dalle scelte di ogni giorno del singolo individuo. E poi, collegato a questo, non bisogna dimenticare che comunque la rivendicazione dei beni comuni è oltremodo giusta, ma va sempre contestualizzata all'interno di una società in cui vige sempre la scissione da Marx tra una produzione sociale delle risorse e una gestione che rimane privata delle risorse, ed è quella la scissione che rimane fondamentale e rende più complesso, a mio avviso, il discorso dei beni comuni. Questo è il primo punto. Poi, scusatemi se sarò lungo, il secondo, più o meno collegato a questo, mi chiedevo che questo discorso si faceva dei beni comuni. Quando noi diciamo beni comuni, intendiamo davvero che ciò che è comune a tutti, sia a chi ha e sia a chi non ha? E se è comune davvero a tutti, è comune a tutti indifferentemente, alla stessa maniera? Io penso che per il lessico del politico un termine fondamentale è quello del confine. Un esempio, facendo una leggera divagazione, ad esempio i meccanismi di identificazione simbolico di identità e differenza, uno rinforza la propria identità ponendo una differenza, distruggendo la differenza, che si chiami ebreo, si chiami nero, si chiami rom, che sia la donna rispetto al dominio patriarcale, che sia l'omosessuale. In questo caso, per quanto riguarda il discorso del chi ha e chi non ha, una politica dei beni comuni non rischia soltanto di ricadere in una, come diceva anche Illuminati, ha parlato di allargamento, e quindi di un spostare i confini, ma non di trascenderli davvero. Terzo punto, questo che fa più riferimento alla relazione della professoressa Giardini, il rapporto tra comune e differenza, e le differenze. La domanda è fondamentalmente una sola: se si può trovare un punto di convergenza Oppure si rischia il cortocircuito. Prima si è parlato, la professoressa ha parlato appunto delle pratiche di relazione all'interno del femminismo e lì vi è un punto di convergenza, ma non c'è anche il rischio che si crea un cortocircuito di creazioni di spazi comuni che inglobano le differenze, le sussumono e quindi le differenze non riescono ad esplicarsi. Ultimo punto e finisco, però non se ne ha parlato Lorenzo all'inizio, ma poi non se ne è discusso più tanto della conoscenza come bene comune. Ho letto sempre all'interno di un corso per stesso un testo di Rodotà che fondamentalmente lui elogiava o meglio vedeva i lati positivi dell'era multimediale, della messa in comune del sapere attraverso internet. Solo che a mio avviso non bisogna vedere solo il lato positivo, ma bisogna rovesciare dialetticamente, ossia internet, i social network, Wikipedia sono sicuramente degli strumenti di messa in comune la conoscenza, ma non bisogna vedere soltanto il lato positivo, non c'è anche una sorta di doppio dispositivo, cioè un dispositivo di visibilità, come diceva Foucault parlava del dispositivo della sessualità come prodotto dal potere e quindi una produzione di una visibilità che funziona al potere e quindi quello che viene messo in comune non per forza è funzionale, è positivo, può essere anche funzionale al potere. E poi però per ampliare il discorso di Foucault non è vero soltanto che c'è una produzione di una visibilità funzionale al potere, c'è anche un'opacità e quell'opacità viene rimossa dal potere perché non è il caso che sia vista. Un esempio concreto per intenderci: c'è stato il disastro di Haiti, i giornali di tutto il mondo hanno riportato questa tremenda parola per spiegare la situazione di dispersione generale, di sciacallaggio. Solo che lì lo sciacallaggio è gente disperata, che già Haiti è un paese fortissima, con forti strati proletari e sottoproletari, e quindi lo sciacallaggio mi sembra parlare di sciacallaggio da parte di gente che non ha più la casa, perché tutti quanti non hanno più la casa, e di appropriarsi della roba di cui potevano disporre perché avevano fame, perché avevano sete, perché non potevano fare nulla. Stop, finito. Sappiamo tanto che genera dei resti, che genera gli altri, ma come un se stesso diminuito, il nero, il mente, il gente, e via dicendo, insomma. E invece il principio di differenza è un'altra cosa, è una cosa che si toglie dall'uno, si toglie dalla gerarchia, si toglie dalla scala e genera altre pratiche. Se vuoi poi parliamo, ad esempio, una cosa interessante che io trovo che andrebbe ripresa, contestualizzata dall'esperienza femminista, è stato il fatto che sottraendosi alla narrazione imposta e quindi all'immaginario imposto, tu già ti trovi in comunanza con altre, cioè ti ritrovi con altre, lì dove si volevano le donne separate le une dalle altre, perché madri, mogli, mariti, in competizione per l'amore di quell'uomo, il valore sociale che ne poteva derivare, quando si sono tolte da quella narrazione c'è stata una condivisione, una messa in comune di bisogni e anche delle sofferenze anche sociali che la mancata risposta a quei bisogni generava. No? Quindi forse dobbiamo cominciare a ripensare non differenza, che significa le tante differenze che separano, che contrappongono, eccetera, ma come delle pratiche e anche dei pensieri che non stanno nell'idea di o molti tutti uguali o uno più uno. No, appunto questo prendo come punto di convergenza tra comune e differenza. Ho detto ci stanno anche altri esempi che possono, che risultano un cortocircuito per comune differenza. Non lo so, ad esempio mi viene in mente tutto il discorso comunitarista oppure il multiculturalista. Sì, posso dire una cosa però, perché secondo me stiamo passando su un fraintendimento. Per comune, almeno per quello che mi è sembrato, abbiamo detto, ma non si deve intendere un minimo comune denominatore, cioè ciò che è comune a tutta una serie di individui, no? In realtà lo diceva chiaramente Illuminati, cioè noi stiamo parlando in realtà di quel tratto, quello spazio vuoto, che non è il minimo comune denominatore, ma è uno spazio d'azione. Cioè, il problema è, nel momento in cui noi andiamo a definire il comune, non è più comune, è evidente, no? Anche a livello logico, cioè non è che si può definire che cosa è il comune, individuare il minimo comune denominatore tra una serie di. Allora, ecco lì che ci sono i confini, no? Quello di cui parlavi prima, il confine tra un gruppo che si mette in comune in base a qualcosa che ritrova in comune tra sé, si oppone quindi ad un altro gruppo che fa la medesima operazione. Secondo me questo è il principio anche del comunitarismo, cioè di tutte queste questioni di filosofia politica che succedevano negli anni 80, eccetera, eccetera, che però nasce in ambito anglo-americano come risposta, no, invece all'individualismo, eccetera, eccetera. Quindi, non bisogna, secondo me, sovrapporre troppi livelli, perché altrimenti cioè, la parola comune diventa la parola rende più comune che esiste. Quindi, secondo me, tendere un po' a insistere su questo punto, no? Cioè, tra ciò che è lo spazio vuoto, inappropriabile, non ciò che abbiamo in comune, no? Come minimo comune denominatore. Io credo che in parte la tua risposta si possa totalmente si possa rispondere in questo modo. Io credo che l'essenza del comune, la differenza tra il comune, il privato e il pubblico sta nella diffusione del potere. E la diffusione del potere significa mettere dal punto di vista istituzionale, la potenziale istituzionalizzazione del potere stesso. No? Nel nostro sistema, per esempio, quando avevamo lavorato sulla commissione volontaria, avevamo stabilito che per i beni comuni la legittimazione ad agire era diffusa per quanto riguardava la tutela inibitoria. Cosa vuol dire in gergo giuridico un po' tecnico? Significa sostanzialmente che se un bene comune viene messo a repentaglio, e conto una zona, una bellissima costa incontaminata in una certa zona, chiunque della collettività può agire in giudizio per far cessare quell'azione che mette a repentaglio il bene comune, che invece la diffusione della tutela inibitoria, cioè dire il sistema delle corti, che è quello che noi abbiamo, no? Come istituzione, viene utilizzato in modo diffuso come esercizio di potere a tutela del bene comune. Questo per quanto riguarda la tutela inibitoria. Per quanto riguarda invece la dice, ma sì, Matteo, tu hai criticato la Rousseau Blanc, ma che alternativa dai? No? Quindi quasi che nel momento in cui tu sottoponi a una critica delle categorie che sono rientrate, se sono diventate parte assolutamente dell'immaginario diffuso della stessa vostra strutturazione, della nostra coscienza, tu abbia l'onere di offrire un'alternativa. Quindi in qualche misura, mentre invece siamo di fronte all'idea di legalità, per esempio, è un'idea che ci sono voluti 2000 anni per crearla, è nata, sono state pratiche retoriche diffusissime, ci sono migliaia di libri per fuori della legalità, che arriva uno dopo e ti dà un'alternativa. Tu sottoponi a critica quella che mi pareva essere una mistificazione che portava a determinate distorsioni. Similmente, secondo me, se noi sottoponiamo a critica il dualismo privato-pubblico, così come è stato declinato nell'idea gerarchica, nell'idea della concentrazione del potere, e diciamo che comune è ciò che si declina in una chiave diversa rispetto a questa, e diamo anche delle indicazioni, se vuoi, di massima, no? Deve avere una dimensione globale, per esempio, non può essere circoscritto dai confini dello Stato, perché il bene comune è qualcosa che non riguarda soltanto uno Stato in sé. La foresta amazzonica è un bene comune dell'umanità, di Picasso, che era nelle mani del giapponese, voleva farsi cremare col Picasso stesso, è un bene comune dell'umanità dal punto di vista sociale, no? Allora, non è che noi dobbiamo, nel momento in cui diciamo, sottoponiamo a critica un dualismo, di tipo estremamente pervasivo, che completa quasi lo scenario del nostro immaginario senza lasciare altri spazi. Noi sottoponiamo a critica quello, diciamo che c'è un altro modo di vedere le cose che passa attraverso una sovversione dei rapporti di potere originari, di quel tipo di rapporti di potere, e poi saranno le pratiche, voglio dire, in qualche modo, che faranno emergere, se del caso, i modelli di gestione del comune stesso. Non è che nel momento in cui tu sottoponi a critica qualcosa devi già preparare bello e pronto il modello alternativo, facendoti carico di tutti i problemi che il comune, in quanto anche declinazione locale sotto certi ambiti, no? Perché locale è anche globale. L'inclusione, i gruppi, eccetera, saranno qualche cosa che in qualche misura tramite le pratiche verranno declinate. L'ultima cosa, il comune secondo me è l'unica cosa che tutti hanno, cioè la distinzione tra coloro che hanno e coloro che non hanno, è una distinzione importantissima nell'immaginario politico dell'Occidente. Se tu pensi per esempio alla stessa struttura fondativa della Costituzione americana, il sistema dei checks and balances era stato presentato come il modo attraverso il quale le minoranze vengono tutelate nei confronti delle maggioranze, laddove le minoranze erano, nei discorsi di merito, sostanzialmente i proprietari nei confronti dei proprietari. Poi però, utilizzando la retorica della minoranza, siamo riusciti a strutturare in qualche misura un ordinamento giuridico che cristallizza la differenza di censo in una maniera potentissima. No? Oggi noi, nel nostro diritto vigente, lo dicevo a Federica durante l'intervallo, ci troviamo in una situazione per cui è assolutamente normale che un governo di destra o di sinistra, se vogliamo, faccia una campagna elettorale dicendo io voglio privatizzare, che so, il servizio postale. Okay? E vince le elezioni e nei primi 100 giorni privatizza il servizio postale, come parte di un normale processo di rappresentanza politica. Perché questo? Perché il servizio postale è dello Stato, il governo è gestore della cosa pubblica, lo Stato, se vuole, si vende la sua proprietà. Okay? Nel momento in cui lo Stato si vende la sua proprietà, si vende però anche qualche cosa che non appartiene solo al governo in carica, ma appartiene a tutta la collettività che nei secoli ha costruito quel servizio sulla base di fiscalità generale e quant'altro. Questo è privo di qualsiasi tipo di tutela ulteriore rispetto al processo politico ordinario. Okay? Una volta che questo trasferimento, supponiamo, del servizio postale dal pubblico al privato è avvenuto, se il governo dopo fa una campagna elettorale e vuole tornare indietro e vuole nazionalizzare il servizio postale, che nel frattempo era diventato privato, si trova progressiva tendenza allo spossessamento, quindi all'espropriazione vera e propria della proprietà di tutti, compreso di quelli che non hanno null'altro, come individui privati, no? come individui proprietari, a favore dei privati che possono effettivamente comprarsi, senza che questo abbia nessun tipo di tutela costituzionale tale da garantire quelli che sono stati gli investimenti comuni con la fiscalità generale in un periodo molto lungo di esistenza dello Stato. Allora, questa cosa è una pratica portata da una certa evoluzione storica molto complessa e molto lunga, che è assolutamente incompatibile, per esempio, col dettato della nostra Costituzione vigente, perché la nostra Costituzione oggi dice la proprietà è pubblica o privata, e le pone, fa di tutto per porre esattamente sullo stesso piano. Cioè, non è che dice la proprietà privata è di più della proprietà pubblica, il nostro sistema costituzionale che mette il pubblico e il privato sullo stesso piano. Dopodiché la declinazione di questo processo costituzionale è andata in un'altra direzione, perché ci sono delle tradizioni molto antiche che difendono il privato nei confronti del pubblico e non il pubblico nei confronti del privato. Questa secondo me è una battaglia chiara di eguaglianza tra il pubblico e il privato, di costruzione di spazi del comune che siano più ampi e più resistenti, che bisogna in qualche modo fare. Dunque, io volevo fare una piccolissima premessa che non c'entra con la tua domanda, però credo che sia utile farla. La discussione di oggi assume un particolare rilievo perché siamo alla vigilia di un attacco molto violento al comune, nel senso che l'ultima finanziaria, sia per la parte che priva i comuni e le regioni di un terzo circa delle loro risorse, sia per la clausola di condono sugli abusi edilizi, chiaramente produrrà una gigantesca ondata di privatizzazioni, perché se tu togli i soldi agli enti locali, quelli possono tanto vendere quello che hanno per entrare nelle compatibilità di bilancio. L'abusivismo edilizio ovviamente sappiamo che intacca fortemente molti aspetti dell'uso comune del suolo, ad esempio, no? Quindi noi parliamo di un problema che rischia di diventare molto drammatico, cioè di essere in fase di liquidazione. Ecco, sul suo intervento voglio dire due o tre cose soltanto. Uno, io ritengo che effettivamente il discorso del comune, che pone anche dei problemi forse di costituzionalizzazione, perché è giusto quello che hai detto te sulla parità, però il concetto di proprietà comune forse potrebbe anche essere oggetto di una definizione costituzionale. Dei beni comuni, no? Inserirlo oltre il problema di proprietà pubblica e proprietà privata. E diciamo, io ritengo che questa tematica dei beni comuni effettivamente vada messa a confronto con la tradizione di tipo marziano. Ci sia un problema su questo, non è il caso di affrontarlo adesso, ma secondo me il problema si pone proprio in sostituzione della tendenza prevalente del movimento operaio a risolvere in termini di socialismo reale, cioè di proprietà pubblica, il problema di socializzazione dei mezzi di produzione. Questo è un grosso problema, qui lo dico. Invece non lo vorrei il rapporto con Rousseau. Rousseau non è un utopista, Rousseau utilizza promiscuamente la proprietà privata del tipo Locchiano, il concetto di proprietà lavoro Locchiano, per Emilio ad esempio, e il concetto forte di proprietà pubblica del tipo Bessiano nel contratto sociale. Quindi rispecchia proprio questa bipolarità tra un privato tutto Locchiano e un pubblico tutto Bessiano, tanto che lui dice che il mio sistema è lobbismo perfezionato, perché toglie questa figura ambigua del sovrano personale, eccetera, e lo fa risiedere in una volontà collettiva pubblica che quindi risolve tutti i problemi e contraddizioni secondarie del contratto di autorizzazione obesiano. Ecco, il terzo punto che volevo porre era questo: chi sono, usiamo il termine orrendo, di stakeholders del comune, ma giustamente Mattei diceva, per esempio, nel caso dell'acqua, gli utenti, i residenti, diciamo, di una determinata zona che devono usufruire di quell'acqua. Io credo che questo concetto serva anche per altre cose, tipo il reddito di cittadinanza, che non è strettamente un bene comune, nel senso che i confini fra i vari gruppi, le varie identità, termine orrendo, mi sa tanto di casa Paolo, vorrei evitarlo, diciamo, no? I questi confini si spostano continuamente, storicamente, no? Uno dei meriti del movimento femminista è stato di rompere l'uno della rappresentanza, introducendo, cioè, rappresentanza di chi? Soltanto delle maschile, era ovvio, scontato, e poi le conseguite molto alte, quindi con questi confini si spostano continuamente. Per esempio, nel caso del reddito di cittadinanza, il primo problema pratico che si pone a chi il reddito di cittadinanza, ma innanzitutto ai residenti in un certo territorio, e quindi sopprimendo una distinzione fra cittadini italiani e migranti, che comunque provvisoriamente transita in quel territorio, lavora in quel territorio, contribuisce allo sviluppo di quel territorio, e quindi deve essere in qualche modo aiutato. Ovviamente questa è una cosa estremamente provvisoria, informale. L'uso dei beni comuni è innanzitutto visto in funzione di quelli che sono effettivamente coinvolti, cointeressati, e questo fa tutt'uno col continuo spostamento dei confini. I confini servono sostanzialmente a selezionare. Noi immaginiamo che il confine sia il confine nazionale italiano, ma non è affatto il confine nazionale italiano. La prima linea di confine sono i vecchi CPT, l'attuale CE. Tu entri nel CE e lì vieni selezionato, tu vai al lavoro, tu vieni espulso, tu vai al lavoro stabile in Italia, tu vai al mercato del lavoro clandestino in Italia, a cui vieni diretto, determinato. Quindi sono filtri, selezioni, meccanismi di inclusione selettiva, no? e di differenziazione. Ecco, questi confini si moltiplicano, noi dovremmo andare, penso, in una direzione completamente opposta e ogni volta estremamente provvisoria. Ultima cosa, la questione internet. Beh, internet in apparenza è un campo di condivisione totale, in realtà ci insistono sopra dei monopoli proprio classici, no? Monopoli sia di tipo privato sia di tipo pubblico. Vi ricordo, c'è Google, che è un caso classico di impresa, di grande trust, e poi abbiamo quello di Stato cinese. Quindi tutte e due le pratiche del pubblico statalizzato e dell'operatore privato monopolistico sono tutte e due presenti in questo settore. Quindi c'è una fortissima presenza di elementi e pubblici e privati e monopolistici. Quindi è un terreno di lotta, non è un terreno che sia scontato di comune. Fa vedere l'enorme virtualità del comune e del rifiuto delle recinzioni, ma anche è il terreno dove si svolge la pratica più selvaggia di recinzioni private e di interventi pubblici classici di riequilibrio, perché i cinesi dicono no, noi non vogliamo che venga recintato la comune, ce lo recintiamo noi questo terreno, no? E poi su questo si svolgono delle partite politiche. Vabbè. Diciamo che raccogliamo un po' di domande. Ha quasi risposto, però ormai visto che ci sono la faccio comunque la domanda. Cioè, infatti la mia domanda riguardava proprio beni comuni, comune, comunità, cittadinanza, confini nazionali. Cioè mi chiedevo se in realtà il comune sfugge alla dicotomia pubblico-privato, no? Sembra quasi che necessiti di una nuova definizione di cittadinanza. Cioè, qual è questa cittadinanza che propone? Allora mi dico, è una cittadinanza nazionale o è una cittadinanza cosmopolitica? Che non sia una cittadinanza nazionale, e soprattutto, data il paradosso quasi costitutivo dei diritti umani, no? Perché il bene comune, cioè i beni comuni fanno riferimento a, intanto si parlava prima del diritto al nutrimento, no? Del diritto all'acqua pubblica, dunque fa leva su quelli su cui penso concordiamo tutti, sono i diritti umani. Storicamente i diritti umani, cioè dalle rivoluzioni francese, insomma dalla francese in poi, si pongono all'attenzione come diritti dell'uomo e del cittadino, e in quanto diritti umani vengono rivendicati se non come diritti di cittadini, e in quanto diritti umani poi dalla, come dire, Convenzione dei diritti umani in poi, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dalla Convenzione di Ginevra, si ripongono, come dire, all'ordine del giorno. Per cui esiste un cortocircuito, direi, interno ai diritti umani. Sembra quasi che si possa rivendicare un diritto umano se sei cittadino di uno Stato. Nel momento in cui smetti di esserlo, non si capisce bene chi ti può concedere questi diritti umani, no? Quindi, data la contraddizione interna ai diritti umani e data un dato di fatto che è l'esclusione democratica di cosiddette non persone, no? Chi sono, cioè, questi che farebbero parte della comunità e che poi materialmente gestirebbero i beni comuni? Come questa idea di comune, se si pone al di là, in un terreno, come dire, non contaminato rispetto a quello pubblico o privato, a una cittadinanza nazionale, come risolve, cioè, la partecipazione poi diretta tra persone e non persone? E quindi l'esclusione di fatto resta, no, non resta, insomma, questa è. Cioè, qual è l'idea di cittadinanza che propone, se ne propone una? Finito, mi sa. Sì, ho concluso. Dunque, no, io volevo più che altro riprendere una delle ultime frasi del professor Mattei, quando dice che le categorie giuridiche sono inadeguate per concettualizzare questa idea del comune che emerge in tutta la sua forza, soprattutto negli ultimi tempi. E effettivamente, anche sentendo lunedì Rodotà e studiando anche gli atti della commissione Rodotà, oltre che i libri scritti dal professor Rodotà e dal professor Mattei, emerge comunque con chiarezza che tutto il gioco del riconoscimento dei beni giuridici dal punto di vista del comune si basa su una dialettica, quella della rilevanza o meno economica del bene giuridico e dell'ancoraggio alle categorie costituzionali, in particolar modo l'uguaglianza sostanziale, articolo 3, secondo comma della Costituzione. Mi domandavo se, anche alla luce di quello che ha detto la professoressa Giardini, in realtà l'incapacità da parte della scienza giuridica di categorizzare il comune non sia strettamente legata al fatto che la scienza giuridica non è stata in grado di mettere a tema il problema del corpo e dei bisogni che sono legati al corpo. Brutalmente, questo avviene tanto nella scienza giuridica quanto nella scienza economica, una scienza che originariamente era nata per garantire in sé il più ampio numero di bisogni al più ampio numero di persone e che poi oggi arriva dall'insé all'in-me, alla categorizzazione di un paradigma che è quello dell'homo economicus, che in realtà, come lei ha giustamente detto, può applicarsi soltanto alle grandi multinazionali. Come dire, immagine che secondo me è stata, questo passaggio che è stato ben reso appunto da Galbraith nelle sue opere, ma che secondo me rimane ancora meglio compreso da Gaber quando dice il problema non è Berlusconi in sé, il problema è Berlusconi in me. Ora, il punto poi, secondo me, è questo, che andando nell'esperienza giuridica, privatizzare l'acqua significa appunto privatizzare il 60% dei corpi delle persone. Che il 60% del corpo umano è appunto composto dall'acqua. Ecco, allora io mi domando, in realtà, questa incapacità che la scienza giuridica ha di concettualizzare il comune non è strettamente legata all'esclusione dal discorso giuridico del corpo nella sua concretezza e dei bisogni che sono strettamente legati al corpo? Del resto, questioni come la procreazione medicalmente assistita, ma già da prima l'aborto, o in campi completamente diversi, penso alla clonazione, in qualche modo rilanciano questo problema della concettualizzazione del corpo dal punto di vista giuridico. Seconda brevissima osservazione che riguarda, davvero rapidissima, il suo libro, e da questo punto di vista chiedo, come dire, anche al professor Illuminati, chiederei il suo punto di vista su questa questione. Nel suo libro lei fa molto riferimento alle battaglie dell'acqua, dei beni comuni, soprattutto del sud del mondo, in particolar modo dell'America Latina. Lo si è detto, Uruguay, Bolivia, Ecuador, in parte anche il Brasile del primo Lula. Domanda, quando però noi caliamo questa concettualizzazione, questa riflessione più teorica sul piano della prassi politica, chiedo a un comparatista, che appunto per definizione comparare significa in qualche modo ragionare e pensare per alternative, no? Beh, in qualche modo il riportare queste pratiche politiche nel vecchio continente può essere interessante e utile, ma può essere anche insoddisfacente, anche perché c'è una tradizione alle spalle, una tradizione di movimento nel vecchio continente che può essere tanto ingombrante quanto allo stesso tempo proficua nella misura in cui si riescono a determinare delle discontinuità rispetto alle continuità di una certa tradizione. Ecco, mi domando, in realtà tutto questo osservare gli altri non corre un po' il rischio, come dire, di farci rendere meno consapevoli di quello che sta succedendo oggi? Voglio dire, è vero che il referendum è un classico strumento istituzionale E c'è poco, diciamo, di movimentistico e di politica dal basso in apparenza. In realtà oggi con il referendum sull'acqua siamo di fronte ad un cambiamento politico del paradigma d'azione dei movimenti, perché per la prima volta sono i movimenti che si fanno promotori di istanze di cambiamento che non sono passate da un livello istituzionale. Aborto e divorzio, che sono state le grandi battaglie, partivano da istanze politiche che venivano formalizzate all'interno, del Parlamento. La legge è stata fatta in Parlamento, poi sappiamo che c'è stato il referendum e sappiamo anche che un certo pensiero della differenza giustamente era anche contrario a quel tipo di soluzione. Quello che voglio dire però è questo, è che siamo per la prima volta di fronte ad un'elaborazione alternativa della prassi politica che parte dai movimenti senza tenere conto di un modello di garanzia dei diritti che nasce dal Parlamento, anzi dal Parlamento esce fuori un vero e proprio saccheggio. Io volevo riallacciarmi agli ultimi due interventi che sono stati fatti e fare una domanda più in generale sul rapporto tra comune e diritto. Che Lorenzo all'inizio della sua introduzione ha messo in evidenza come la coppia pubblico-privato si formi, diciamo, per opposizione interna, cioè una cosa o è pubblica o è privata, e tuttavia questi due termini si formano, diciamo, tenendosi per mano, cioè ognuno si definisce se stesso tramite l'altro. Ora, diciamo, storicamente questa coppia si viene a formare insieme ad altre due categorie fondamentali per la nostra modernità, cioè quella di economia di mercato e quella di diritto. Cioè, non esiste uno Stato, un pubblico e un privato senza un'economia di mercato, senza un diritto, senza una legge. Ora però noi abbiamo presentato il comune come qualcosa che eccede, che non è sussumibile sotto le categorie di pubblico e privato, e come qualcosa che d'altro canto non è posizionabile in maniera, diciamo così, libera su un'economia di mercato. Allora la cosa che mi chiedo è cosa ne è del diritto? Cioè se, diciamo, dei tre elementi di questo trittico due sembrano non rispondere più all'esigenza del comune, come ci poniamo rispetto al diritto? Cioè il diritto è ancora qualcosa che è in grado di dar conto del comune oppure rischia di sussumerlo a sua volta ancora all'interno delle categorie del pubblico? Sul bisogno un po' di non rimanere soltanto a livello teorico, ma di cercare di avere, come dire, delle pratiche, no? Delle... Io sono un po' di voce. Ti voglio registrare. Ti emozionare ora, Davide, pronti. No, sul concetto di prassi, a me un po' sembra, no, la questione dei beni comuni, in particolare legata a facile da pensare il referendum sull'acqua, al fatto che ci sia una sorta di sfida della partecipazione. Mi leggo a un articolo, però non ricordo chi l'ha scritto, del manifesto, in cui si spiegava un po' come Nichi Vendola con la sua legge in Puglia, no, stia cercando un po' di portare la gestione del bene comune, acqua in questo caso, che tenga conto delle quello che io un po' intendo partecipazione o prassi, cioè di una gestione, no, che venga anche dal basso. Mi sembra un po' far così, mi pare che si andrebbe a Martino, scrivendo questo, cioè, o forse anche. E mi pare che ci sia un po' una sfida della cittadinanza. Questo, a me piacerebbe pensare, anzi, io vorrei fare così, cioè che un bene comune fosse gestito in una forma, no, di partecipazione. Però è una sfida, e comunque vorrei, insomma, sentire cosa pensate rispetto a questo. Poi niente, in breve, sulla questione del sapere come bene comune, della cittadinanza, la divisione tra pubblico e privato, nel momento in cui il diritto pubblico e il diritto privato si compenetravano, si aveva un qualcosa che non era né di diritto pubblico né di diritto privato, che poi produceva una degenerazione del concetto di comune pubblica. Allora, questo mi pare che sia molto legato al concetto di sapere, perché è anche il concetto di cittadinanza. In un modo o nell'altro, essere cittadino di una nazione significa avere un determinato sapere che poi realizza un potere. In semiotica, e chiudo, questo è spiegato abbastanza bene, per cui quando si analizza, non so, con dei modelli semiotici tipo quelli della narrazione di Maas, insomma, un po' così, ci sono le questioni della modalità e modalità del sapere, modalità del potere, sono strettamente connessi, per cui un soggetto destinatario, destinante, insomma, come vogliamo dire, può, come dire, arrivare poi al processo finale della significazione solo e soltanto se sapere c'è, perché ci può essere quindi il potere. Cioè, se io ho il sapere, allora ho la potere, cioè il potere, la potenza di fare qualcosa. Quindi questo non mi pare che sia, come dire, già molto importante per spiegare perché il sapere è comune, perché il sapere può generare cittadinanza, perché se io ho il sapere ho il potere di essere cittadino. Questo è il mio scopo. Funziona pure creando bisogni, per così dire, artificiali. E questa è una distinzione che intuitivamente è effettivamente, insomma, forte, sembra c'è qualcosa di... Però mi chiedevo due cose. Uno, se questa distinzione tra bisogni, per così dire, fondamentali, naturali, tra cui far rientrare anche magari anche il sapere, come unire il diritto all'informazione, eccetera, e dall'altra parte i bisogni invece artificiali, non ricada un po' nel dualismo di cui parlavamo prima. E viceversa invece come allora, invece quale può essere la misura, quindi non una definizione delle due cose, ma quale può essere una misura per distinguere un bisogno fondamentale da invece un bisogno indotto o artificiale, come lo vogliamo dire, insomma. C'è un'altra domanda? Basta? Vabbè, dai, le questioni sono le scommesse, cioè sono enormi, quindi io faccio veramente delle battute così, cercando anche, vorrei mantenere il tenore anche metaforico del mio intervento, quindi non andrò a entrare nella questione della cittadinanza, però volevo anche mettere in evidenza questo punto, forse nella mia relazione è passato, cioè l'ho detto spiegativamente. Dunque, la cittadinanza nasce, restando sempre un paradigma topografico, con l'idea di confine, no? Quindi, sull'idea di confine, quindi del rapporto inclusione e risoluzione, ed è questo il dispositivo. Ora, è un caso che a Roma, per dire la città e la cittadinanza, erano delle cose totalmente diverse, oltre civitas, no? E la civitas è fatta in terra, no? Perché la cittadinanza astrae, passa sopra i confini della URSS. Nel mondo ci sta minacciando. Sarete fucilati. Ci sta minacciando. Vabbè, comunque, quindi questo è il discorso, no? Quindi dove c'è il comune? Il discorso della cittadinanza, secondo me, ecco, comune e cittadinanza sono due termini veramente non slogan, che in contraddizione. Cioè la cittadinanza è un dispositivo di inclusione e esclusione. Può essere usato in chiave emancipativa, chiaramente, no? Chiedere diritti di cittadinanza, no? Quindi per chi non ce l'ha in chiave emancipativa, assolutamente, in molte parti del mondo funziona ancora in questo modo. Il problema è che per me sono termini, appunto, dico, per evitare di essere fucilati tutti quanti insieme, sono in contraddizione, poi la lingua ne parliamo un'altra volta. Io inizio un po' rapidamente. Qual è la sorte del diritto se riusciamo a declinare il comune? Ma io mi considero un rivoluzionario, per cui per me il diritto borghese, così come lo concepiamo nella tradizione giuridica occidentale, va battuto, quindi io non ho nessun tipo di nostalgia da questo punto di vista. Penso però che il diritto sgorghi dalla prassi e che il diritto siamo noi. Cioè, in qualche modo, il diritto è prodotto delle sensibilità, del senso di giustizia, delle prassi, delle persone, quindi nel senso spesso del termine, quindi inclusivo dei bisogni fondamentali che sono fisici, ma anche dei bisogni fondamentali che crescono nel momento in cui il paradigma dell'inclusione trionfa. Quindi io penso che la declinazione del comune sia importante perché dà un altro colpo forte all'idea del monopolio dello Stato sul diritto. E questo è un punto importante. Secondo punto altrettanto importante, secondo me, è che si ritorna in qualche modo, qui forse come diceva Illuminati, ma è stato detto anche dopo, io credo all'idea, alla vecchia polemica, se vogliamo, tra Bakunin e Marx ai tempi dell'internazionale. No? Cioè, da un lato c'è l'idea per cui Marx era statalista, le conseguenze dello statalismo marziano si sono viste nella degenerazione del socialismo realizzato, d'altra parte Bakunin era accusato da Marx di essere poco attento a quella che era la struttura, cioè la struttura dell'economia, in quanto e quindi in altre parole Marx diceva che la critica di Bakunin allo Stato indeboliva la critica fondamentale alla struttura, no? Io credo che il comune rispetto al comunismo realizzato sia da declinarsi nell'ambito di una critica profonda alla statualità così come realizzata tanto nell'esperienza capitalistica quanto nell'esperienza socialista. Penso anche che le cose che stiamo dicendo oggi siano delle cose che sono emerse e sono oggi possibili anche al tavolo di discussioni che non sono affatto delle discussioni semiclandestine da parte della sinistra rivoluzionaria, proprio perché abbiamo toccato con mano con le recenti crisi, quella che è stata la degenerazione del modello capitalistico realizzato, e che quindi si possa finalmente comparare il socialismo realizzato col capitalismo realizzato, non il socialismo realizzato col capitalismo idealizzato o viceversa, no? Quindi siamo chiamati a uno sforzo di immaginazione, lo si diceva prima, che sia uno sforzo di immaginazione davvero nuovo, perché dobbiamo costruire delle categorie che non possono più farsi basarsi soltanto su quelle vecchie contrapposizioni. Inadeguatezza del diritto e delle strutture giuridiche a farsi carico di queste cose. Io penso questo, è questione del trapianto sostanzialmente, se è possibile recepire in Occidente delle prassi che vengono da paesi altri. Io tendo a vedere le cose in questo modo, che in realtà la cultura giuridica non è che sia incapace di elaborare queste cose, ci vuole molto tempo. Cioè, la cultura giuridica è un edificio di nuovo collettivo durato centinaia di anni e che si è diffuso col tempo. Stiamo affrontando il comune da pochissimo tempo, in realtà lo affrontiamo da quando abbiamo potuto far tesoro del declino tanto del modello del socialismo realizzato quanto del capitalismo realizzato, quindi siamo in una fase nuova a mio modo di vedere, e in quanto tale evidentemente la cultura giuridica ha delle sue rigidità istituzionali con le quali fare i conti. Però una cosa interessante è questa, per esempio la giurisdizione non è mai basata sulla cittadinanza. Cioè io posso utilizzare una corte negli Stati Uniti essendo un immigrato sans papier della Costa Rica, vado in causa, presento distanza, non lo so se l'incapacità di declinare il corpo. Io penso che l'idea di persona in qualche modo comprenda anche il corpo, però non lo so. Basta, mi fermo qui perché sono molto bene. Sì, due battute. Allora, sulla questione, no, chi sono questi del comune, non per rispondere ma per dire un atteggiamento, cioè andiamo a vedere dove c'è già qualcosa, perché sennò rischiamo di far diventare il comune qualcosa che ha da venire e siamo fregati, insomma si perde la partita di partenza, invece ci sono già delle, no, situazioni. E allora ti faccio alcuni esempi, situazioni anche conflittuali, cioè tu, dove tu non molli, non recedi rispetto a fare di quei soggetti lì, di chi, chiamo Aret, in comune con te, no? Che ce l'hanno, hanno a che vedere. Pensa alla vicenda della denuncia al pronto soccorso da parte dei medici dei clandestini, lì c'è stato no. Cioè, lì c'è qualcosa di comune che non torce, cioè non lo, no, sottoponi a delle recinzioni, chi ha diritto, non ha diritto, menti. Pensa alla questione della scuola dei ragazzi figli di clandestini, no? In Italia l'abbiamo discussa, c'è stata questa cosa, hanno diritto ad andare a scuola o no, no? Quindi ci sono già dei gesti, delle prese di posizione su questo irrinunciabile, no? Su questa cosa che se lo togli, togli come da mangiare, togli per affami. E poi, Lorenzo, i bisogni fondamentali, i bisogni indotti, secondo me non è la stessa cosa di natura e cultura, cioè i fondamentali sono i dati, quelli evidenti, anche se io devo dire che comincio ad avere una certa stanchezza di questa sorta di orrore di compromettersi con natura lì. Vorrei capire qual è la paura che c'è dietro a questa idea, non bisogna pensare che esiste una natura. C'ho dei colleghi che la fanno facile, rinaturalizzano tutto quanto, e quello secondo me non va bene, però vorrei capire qual è il problema, no? Però sono d'accordo, secondo me tu capisci, usando l'idea del nutrimento, tu capisci quando qualcosa ti alimenta, quando qualcosa è un surrogato, il lavoro che si può fare su opinione e espressione, no? Si può parlare e niente di materiale accade, invece si può parlare qualcosa di materiale accade. I bisogni indotti in genere non alimentano, non so, per dare un punto, no? Cioè c'hanno qualcosa di consistente. Ma sulle questioni del diritto penso forse d'accordo, perché i compagni Pasciugani se vive e lotta insieme a noi, diciamolo così, per riportarlo proprio a una fase di discussione dentro già incipienti del socialismo reale, in cui si confrontavano due diverse concezioni del diritto. Quella di Pasciugani era legata ovviamente al concetto di lotta di classe, proletariato, eccetera, però forse potrebbe essere utilizzata in un contesto anche sul comune, forse, no? Più certo che non quella standard opposta, istituzione, eccetera. Ecco, io un'unica cosa sulla questione dei diritti umani. Io quando sento la parola, l'espressione diritti umani, sono sempre molto diffidente, perché ricordo svariati bombardamenti sull'Iraq in nome dei diritti umani, ma se volete anche la vecchia polemica di Hannah Arendt sui diritti canini e i diritti dei cani dotati di collare, no? E tenendo conto che la situazione di Apolli, che allora era molto limitata, e ora è piuttosto diffusa. In ogni caso, usando il termine diritti umani come metafora, cioè chiamiamo diritti umani quello di essere curato se uno ha un incidente, anche se non sei cittadino italiano, anche forzando i limiti della legislazione italiana. Beh, tu domandavi chi è che deve concedere questi diritti, ma innanzitutto questi diritti si prendono. Questa è la prima cosa, vengono presi. Vengono presi anche attraverso il ricorso alla Corte americana, è un prendersi i diritti, no? Ma normalmente attraverso delle pratiche. Ora lasciamo aperta la questione dell'Italia, molto arretrata sulla questione della cittadinanza, cioè, c'è un, sanguis paritoso, ma anche in situazioni più avanzate come quella americana, per esempio, no? Dove è molto più aperta storicamente all'immissione straniera, è chiaro che lì il problema viene posto attraverso mobilizzazioni di massa, degli ispanici, no? È stata di fatto conquistata contro la legislazione corrente americana da parte del movimento dei neri, forzando e modificando la legislazione americana. Quindi è un problema di continuo allargamento. Cioè, la cittadinanza è un concetto estremamente, deve diventare un concetto estremamente elastico. Il dramma dell'Italia è che noi abbiamo delle componenti che sono fondamentali per la demografia italiana e per l'economia italiana e che però sono irrilevanti dal punto di vista del godimento dei diritti giuridici. Questa è una situazione che ovviamente deve saltare come minimo, omogeneizzandoci ad altre situazioni internazionali più nazionali più avanzate. E certamente è un problema che non si risolve mai in termini giuridici, ma attraverso una serie di continui compromessi e di allargamenti della cittadinanza. Il movimento del comune, il movimento della cittadinanza, credo che vadano nella stessa direzione, una espansione continua dei confini della democrazia e della gestione. Basta. Ringrazio a tutti e ci vediamo spero domani per la seconda. Ah, già.